Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Si intitola Il tutto mio ed è il nuovo romanzo di Andrea Camilleri pubblicato da Mondadori. È un noir erotico, protagonista una coppia di coniugi che ha una strana relazione sessuale. Tutto è nato da un fatto vero, come ci racconta lo stesso Camilleri. Si intrecciano in questo libro delle storie autentiche e diversissime fra di loro, cioè una sorta di cornice generale data da un vecchio fatto di cronaca romana, che cronaca nera, che sconvolse un po' a quell'epoca un po' l'Italia, cioè la storia del marchese Casati Stampa che uccise la moglie, il giovane amante della moglie e se stesso. Ecco, il marchese, diciamo, per una sua strana perversione o va a sapere perché, faceva, diciamo, unire la moglie con dei giovani da lui scelti e lui stava ad assistere. Questa è un po' la cornice, diciamo, generale del romanzo. Però lo spunto le è venuto incontrando una donna, sì, che stava scontando una pena in carcere. Certo. Però il personaggio di lei specificamente nasce da un incontro avvenuto, diciamo, 8-9 anni fa da me, in un carcere, in un incontro avuto con i carcerati e poi con una ragazza all'epoca 28enne che era dentro per un duplice omicidio e la cosa mi incuriosì moltissimo e riuscì a ottenere un lungo colloquio con questa ragazza e questa storia da lei raccontatami, che non è la storia del romanzo, intendiamoci, me la sono portata dentro. Cosa mi sono portato dentro? Mi sono portato dentro l'impressione enorme che ho avuto nel trovarmi di fronte una sorta di assassina innocente, cioè che non si rendeva minimamente conto di cosa fosse, cosa significasse uccidere una persona. Infatti il personaggio di Arianna è molto affascinante, ma nello stesso tempo è contraddittorio, insomma, commette delle azioni turpi ma sembra una ragazzina innocente. Venendo proprio alla fiction, quindi al suo romanzo, questo è un romanzo erotico noir, così possiamo definirlo, mentre insomma sul noir lei è decisamente già avvezzo, sull'erotico probabilmente meno, nel senso che molti suoi romanzi avevano delle parti erotiche. Io ricordo per esempio anche il Tailleur Grigio, le scene dove la donna si lavava e suo marito la guardava erano di un certo erotismo, però in questo romanzo lei ha voluto così spingere un po' l'acceleratore sull'erotismo. Come mai? Sai che cosa è successo? Fatta eccezione del Tailleur Grigio, in altri romanzi, diciamo, le parti, i momenti più erotici erano, come posso dire, virati col colore dell'ironia, col colore del divertimento. E invece qui il colore non c'è, c'è il nero, un nero che già cominciava a esserci appunto nel Tailleur Grigio. E allora lo si nota forse di più. Ma come mai in questo momento della sua carriera ha deciso di dedicarsi, di dare più spazio all'erotismo? Vuoi vedere che è un effetto regressivo dell'età, dato che ho 87 anni compiuti? Cioè lei dice che praticando meno il sesso in qualche modo ne scrive di più? No, guardi, naturalmente sto scherzando, posso immediatamente fare ammenda dicendo che in realtà sto cercando da qualche tempo a questa parte di tentare dei disegni di personaggi femminili. Questo è il primo, vedrà che il secondo, che esce a marzo ma non con Mondadori, è un personaggio femminile completamente opposto ad Arianna. È un altro tentativo di segnare un altro carattere femminile. Ma sarà un personaggio legato a Montalbano? No, un personaggio storico realmente vissuto però. Quindi fa parte, diciamo, del filone dei suoi romanzi storici. Fa parte dei miei romanzi storici, ma ha come centro proprio assoluto una donna. E veniamo alla donna di questo romanzo, Il tutto mio, Arianna. Arianna ha appunto questo compagno, questo marito Giulio, ma ha dei rapporti sessuali, intrattiene dei rapporti sessuali anche con altri partner. Arianna mi dà l'idea che quasi abbia una concezione di sé animalesca. Mi riferisco alla sua adolescenza, alla sua gioventù, a questo rapporto che aveva con lo zio, meglio insomma il compagno della nonna. Lui l'ha violentata, lei abortisce, però ha un rapporto proprio con la natura molto, molto forte, è così? Questa è una giustissima osservazione. Lei in realtà è una sorta di spirito della terra, no? Cioè lei è legatissima, essendo una contadina, figlia di contadina, è legatissima alla terra e lei sente se stessa come un essere proprio della terra, ama il suo sudore, ama se stessa, il rapporto amoroso che lei ha è come l'acqua nel racconto della nonna, l'acqua buona, l'acqua cattiva, cioè tutto è legato al suo essere creatura terrestre assoluta. Arianna ha anche un luogo fisico dove si rifugia, il sì, tutto è mio. Un luogo fisico, il tutto mio, quello l'ho preso, l'ho sentito da una bambina. Tanti anni fa ho sentito dei bambini, ho guardato per un po' dei bambini che giocavano e c'era una bambina che aveva fatto un piccolo recinto con dei cuscini e stava litigando con un altro bambino dicendo tu non devi entrare nel tutto mio, non devi entrare nel tutto mio. E allora questo tutto mio, pronunciato tutto assieme, mi rimase impresso, l'ho adoperato per, anche qui in questo romanzo. Il tutto mio che è uno spazio fisico, ma è anche lo spazio mentale della sua follia, volendo. Sicuramente il tutto mio è lo spazio della follia di Arianna, ma anche il rapporto con Giulio sicuramente non è un rapporto sano quello che ha col marito. Fra i due chi è che manovra di più l'altro? Insomma, chi è che muove i fili? Giulio non è che muova tanto i fili di lei, li muove fino a un certo punto, ma Giulio per Arianna rappresenta qualche cosa di un alibi, vede, gli istinti di Arianna in realtà sono sempre giustificati dal marito. Quando ammazza lì per errore, prima investe l'uccello, si fa investire dalla macchina, poi lei lo ammazza, in realtà il marito gli spiega che l'ha fatto per opera di bene. E anche lì il marito giustifica non sapendolo un delitto da lei compiuto. Quindi poi la tratta in questo modo, quindi si sente confortata e capita. Ma lei, scrivendo il personaggio di Arianna, in qualche modo è rimasto affascinato da questa donna? Io? Sì. Un pochino sì. Beh, capita, wow, credo che capiti un po' a tutti gli autori di avere un maggiore o minore affetto, propensione verso qualcuno dei suoi personaggi. Non arrivo a dire che è una creatura che mi appartiene, però mi affascina abbastanza, come in realtà mi aveva affascinato anni fa la persona con la quale ho parlato. Parlando invece del suo personaggio, insomma, famosissimo Montalbano, a maggio uscirà un nuovo Montalbano per Sellerio. Ci può anticipare qualcosina? Beh, sicuramente uscirà un Montalbano. Quando dico questo, voglio specificare che Sellerio si trova ad avere due Montalbano nei cassetti e un terzo che gli invierò a fine febbraio. Quindi non so poi l'editore che cosa deciderà di pubblicare di questi romanzi, quale, è già successo, sa? E allora mi trovo in difficoltà a dire che cosa anticipo, perché non so quale romanzo pubblicherà, lo stabilirà lui. Sarà dunque una sorpresa, come del resto... Sarà una sorpresa anche per me. Ecco. Quando dovrò correggere le bozze. Ma è vera quella famosa storia che Sellerio ha già il suo romanzo, l'ultima puntata, diciamo, di Montalbano? Sì, quello ormai sono passati 7 anni, Dio mio, non mi ricordo più nemmeno cosa c'è scritto. Vabbè, ma insomma si sa che fine fa Montalbano, ecco. L'ho scritto, siccome mi era venuta una buona idea su come farlo finire, l'ho scritto a 80 anni, quindi sono passati 7 anni, temendo l'Alzheimer prossimo venturo, allora l'ho scritto allora e l'ho mandato a Elvira Sellerio, che se l'è chiuso in un cassetto dicendo: quando la serie Montalbano dovrà finire, pubblichiamo questo libro, perché non c'è possibilità di ritorno al personaggio. E lei non ha deciso quando farlo finire? Ma certe volte decido di finirlo e poi mi pento. Si pente perché è troppo affezionato a Montalbano o per non deludere i lettori? Guardi, io non sono così affezionato a Montalbano come si crede, però Montalbano è un personaggio ricattatore. Pensi che ogni volta che esce un Montalbano ritornano in commercio e si rivendono, ed è un fenomeno piuttosto singolare, romanzi miei di 10-15 anni fa. Cioè Montalbano ha un effetto di apripista straordinario, mi consente di tenere in catalogo romanzi che altrimenti sarebbero spariti. Ogni volta che esce se ne rivendono 100 copie, 150 copie, 200 copie. È un personaggio ricattatorio, sa. Beh, è un personaggio però anche da traino, in qualche modo lei lo usa Montalbano? Beh sì, lo confesso sinceramente, lo uso, visto che anche lui si fa usare da me, perché sapesse com'è insistente. Su cosa insiste Montalbano? Ma Montalbano è come gli attori, vorrebbe essere il centro dell'universo, vorrebbe che io come scrittore mi dedicassi esclusivamente a lui. E per fortuna non lo fa, si dedica anche ad altro. Ma io fortunatamente riesco a tenerlo a distanza. E questo era Andrea Camilleri, ora in libreria con Il tutto mio, pubblicato da Mondadori. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it, nella sezione Il Cacciatore di Libri. Un saluto da Alessandra Tedesco.